ricordo il mio bisogno di averti accanto. Non c'è un'alba né un tramonto nel mio rimpianto. Non si può volare sempre solo in alto. Io voglio restare immerso qui nel fango. Vento, mi sento stanco, l'amarezza ed il tormento mi fanno male. Non si può volare sempre solo in alto, io voglio restare immerso qui nel fango. Non si può, non fango.